Robert brothers on a mission, 2:30. Bring your plan to rob the toll booth, GW Bridge. Got the weapon concealed, nothing to lose. They choose to break the rules at all costs. Stick them in Jersey, hit the other side of New York. Black and red leather suits and black biker boots. One got the gun, the other one controls the motorbike. Adrenaline pumping, dreams of cash. Anybody try to stop him getting lead in they face. Believe that, black pack on his back ready for loot to fill. What a thrill, they gon' be robbing that booth for real. Do or die, I'm saying it's you and I. They choose to break the rules at all costs. Do or die, I'm saying it's you and I. Two minds steadily manifesting on thoughts. Do or die, I'm saying it's you and I. Two soldiers about to do this pickup, stick 'em up. Do or die, I'm saying it's you and I. It's you and I. Helmets on, racing down Route 4. Junior, pushing a bike, Ike toting the Mac. No time to be scared. When we on the pointed at him, tell him to fill the bag, cause we not getting high. While this time it's 5:30, rush hour is thick. So they weave through the cars, get to the tow booth quick. It's a chick, he put it to her head and said it's a stick to the bag. Big bills, put the ones in my hand, we out. Hot, with the cops on our trail. Dipping and swerving, almost crashed right into a rail. Sweating like hell, they not even trying to see jail. So they pulled the sting and robbed the tow booth for real. Do or die, I'm saying it's you and I. They choose to break the rules at all costs. Do or die, I'm saying it's you and I. Two minds steadily manifested on thoughts. Do or die, I'm saying it's you and I. Two soldiers about to do this pickup, stick 'em up. Do or die, I'm saying it's you and I. It's you and I. Junior's weaving through the car, speed the cops can't catch. But they gaining on a mic, got a plan for that. Throw the ones in the air, all the cars hit the brakes. So they could get out and get some. The cops look dumb, cause they couldn't get through. People blocked the path. So Junior and Ike hit the west side fast. They got their gear stashed somewhere near the train. Smooth getaway, ready to take the loot to the brain. Change the clothes, ditch the bike, Ike tripped in the trash. Keep it moving, gotta get the loot to the lab. Breathing heavy, moving quickly, situation sticky. The whole mission was ill. They gotta wait smooth for real. Do or die, I'm saying it's you and I. Two choose to break the rules at all costs. Do or die, I'm saying it's you and I. Two minds steadily manifesting on thoughts. Do or die, I'm saying it's you and I. Two soldiers about to do this pickup, stick 'em up. Do or die, I'm saying it's you and I. It's you and I. Bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio, la 74esima puntata, penso, se no la 75esima, non lo so, non me lo ricordo, anche perché sono di nuovo tornato nella regia casalinga, Novello Arancione. No, nel senso che della gettata toscana, per l'appunto, passerà a zona arancione mercoledì, e comunque c'è già il coprifuoco, e quindi ho detto come cazzo ci arrivo fino alla Wombat regia solita, e ritorno a casa entro le 10, sono la protezione alle 9:30, non si può fare, e allora per forza di cose mi sono riattrezzato per stare comunque a fare la trasmissione, comunque ai microfoni di Radio Wombat, ma da una versione più casalinga. In realtà mi sono proprio attrezzato per una versione nella quale dove sono e comunque ci riesco a farla la puntata. Mi sono munito di fantastiche cuffie e auricolare, di quelle usate dai gamer, perché ho recentemente realizzato, alla veneranda età di 45 anni, che in realtà le uniche persone che utilizzano il computer e che acquistano oggettistica per i computer come facevo io quando ero giovane negli anni 90, sono in realtà i gamer, che sono le uniche persone che ancora si assemblano il computer a mano, perché lo vogliono moddato, perché lo vogliono potente, eccetera, e hanno un sacco di accessori per fare un utilizzo completamente malsano del computer. Però intanto hanno le sedie quelle super ergonomiche, perché poi passano tipo 14 ore di fila a giocare e queste cose qua, e quindi diciamo che la fascia bassa dei loro prodotti è perfetta per i miei scopi. Cioè le loro cuffie ergonomiche con microfono ad archetto, di quelli che sembra che stai a guidare un elicottero, però la fascia bassa, cioè non quelli che costano centinaia d'euro, ma quelli che costano 16 euro tirate dietro in offerta al supermercato, sono gli oggetti giusti per fare la Coccoli al Silicio su Radio Wombat, e io quelli mi sono procurato. Oggi ho un po' di notiziuole. Una in realtà riguarda, anzi due riguardano la Nord Corea, perché ho letto un sacco di cose sulla Nord Corea nell'ultima settimana e mi ha stupito che avessero questi hacker così attivi, e quindi volevo raccontarvi un po' queste notiziole che avevo letto. Poi volevo in realtà iniziare però aggiornandovi sulle attività dell'HackLab di FDU. Visto che la scorsa settimana ci siamo trovati quando ancora si poteva in presenza, eravamo poi 4 alla fine, 5, non mi ricordo più, comunque pochi, e si è pensato appunto di dire: cazzo, siamo 5, forse dovremmo pensare di fare delle cose online perché il mood ci sembra che vada verso quella direzione. Però ci piaceva anche fare ancora delle cose in presenza, allora abbiamo pensato di fare due cose. Come che io vi anticipo, le date ancora non sono ancora fissatissime, però alcune ve le posso provare forse a anticipare. Per sabato 21, credo, anche se era parlato inizialmente di sabato 14, ma sembrava troppo vicino almeno a me. E vorremmo provare a rilanciare i giochini, cioè i CTF in compagnia, che avevano avuto un grande successo di pubblico. Beh, tipo anche 10-12 persone c'erano venute l'altra volta, quando l'avevamo fatto in presenza questa primavera all'Emerson. E niente, aveva funzionato abbastanza come cosa, ma non mi ricordo se era primavera, forse non era primavera. Boh, chissà quando l'abbiamo fatto, perché poi cioè, il lockdown ha spezzato completamente i ritmi. Io non mi ricordo se era prima o dopo, magari l'abbiamo fatta a settembre, a ottobre, a novembre dell'anno scorso, o forse a maggio, o forse a giugno, ma chi lo sa. Comunque vabbè, non ce lo ricordiamo più quando abbiamo fatto questa cosa, forse era veramente l'anno scorso. Comunque si è fatto, insomma si è fatto, non mi ricordo quando, ma giuro che si è fatto, questa cosa del CTF in compagnia. Ecco, volevamo provare a rilanciarlo in una versione che inizialmente era stata pensata come ibrida, cioè qualcuno in presenza all'Emerson, per chi voleva, con prenotazione e mascherina d'obbligo, però dal vivo, diciamo, distanziati ma dal vivo, tanto si è tanti davanti al computer, non è che. Però il passaggio pronto a zona arancione appunto non ci consentirà di fare questa cosa probabilmente nei tempi che avevamo desiderato, e quindi l'opzione che era ibrida diventa opzione solo online. Ibrida era perché qualcuno era all'Emerson, però altri potevano comunque loggarsi attraverso una stanza di Jitsi, che viene poi verrà poi comunicata sul sito a tempo debito, se è il 21 probabilmente già in questi giorni decideremo l'invito, ecco. E l'idea è quella appunto di giocherellare con alcuni giochi dopo un'introduzione di un'oretta, un'oretta e mezza su come si gioca, perché è una roba che è mancata forse all'altro giro, che comunque era andata bene, nel senso che ci eravamo divisi in gruppetti e quindi in qualche modo chi ne sapeva di più insegnava a chi ne sapeva di meno, e c'erano poi alcune persone che giravano tra i vari gruppetti per evitare che si arenassero e quindi si annoiassero a morte a fare questa cosa, non riuscendo a cavarci un ragno dal buco. Però era mancato un po' una parte di spiegazione iniziale che ti poteva mettere quantomeno, ti regalava più autonomia nella fase successiva. Quindi a questo giro ci sarà una spiegazione online su questa stanza di Jitsi, credo, e poi ci si dividerà probabilmente coordinate in chat o utilizzando la stessa stanza di Jitsi, visto che tanto si tratta poi di loggarsi in SSH su delle macchine e di dare insomma dei comandi, lanciare dei tool, analizzare la situazione. Non è una roba che richiede effettivamente la presenza, tanto più che è un'attività che comunque si sta svolgendo su un server in remoto. Era più bello tutti quanti in compagnia, ma questo è quanto ci regala il periodo. E dunque niente, questa era una delle iniziative pensate. L'altra era sempre un'iniziativa pensata per essere online, nel senso che purtroppo in sto periodo quello faremo essenzialmente, Voleva essere un'introduzione per neofiti, quindi anche solo per persone curiose, su il sistema operativo OpenBSD. Personalmente io sono sempre stato affascinato dal mondo dei BSD, ultimamente ancora di più in qualche modo per il fatto che sono degli ambienti in qualche modo dove devi smanacciare ancora abbastanza e non ci sono entrate a gamba tesa tutte le grosse corporation che invece sovvenzionano in qualche modo lo sviluppo del kernel di Linux, dei software su Linux, eccetera. È una roba che comunque attraversa anche il mondo dei BSD che pure hanno sempre avuto una licenza loro e in qualche modo meno, in alcuni casi meno etica di quella di Linux apparentemente, però comunque sono degli ambienti pacioccosi, in particolare io più che da OpenBSD che è più noto nel mondo della security e di quello anche parleremo quando ci sarà questa presentazione, diciamo, questa serata sarà sempre comunque, credo, un dopocena, forse infrasettimanale, e con una persona che utilizza OpenBSD da un sacco e quindi si è fatto un'idea ben precisa di perché lo fa, se no non avrebbe continuato così tanto, credo. Ecco, io però più che da OpenBSD sono sempre stato affascinato molto da NetBSD. Per la sua folle rincorsa dietro all'hardware, cioè questa cosa di far girare il sistema operativo su più piattaforme possibili, è qualcosa che mi ha sempre in qualche modo l'ho sempre fortemente non so, mi ha suscitato una simpatia spontanea, ecco. E quindi niente, queste due iniziative saranno calendarizzate presumibilmente in questa fase di lockdown light, come l'hanno chiamato, sì, quella roba là, cioè quindi quando sei nel nostro essere zona arancione, che però essendo, vabbè, in primis c'è stato già il coprifuoco fino alle 10 in tutta Italia, quindi non è che uno la sera dice va tanto in giro, e poi entrando anche in zona arancione, gli spostamenti tra comuni iniziano a essere più complessi, no? Perché, ok, che magari non saranno i 500 metri di marzo, comunque sempre un bel rompimento di coglioni, e quindi tendenzialmente, insomma, non pensiamo di avere la possibilità di vederci fisicamente, ma non per questo vorremmo mollare l'osso e quindi vorremmo proporre alcune iniziative online. Anche se questa appunto modalità non è la nostra preferita, avremmo preferito farle dal vivo e in presenza. Ma insomma, facciamo buon viso a cattivo giuoco. E ora vi lascio un po' di musichina e poi vi parlo appunto un pochino di questi hacker nordcoreani. Chiaramente non si tratta dell'hacker nordcoreano. Diciamo che cioè, l'equivalente di War Games, no, di Matthew Broderick, nordcoreano, ma si parla di hacker che lavorano per il governo nordcoreano, quindi tendenzialmente è l'appendice di intelligence informatico del governo nordcoreano, e vi dirò un po' perché in questi giorni, cioè questa settimana sono saliti all'onore delle cronache, non quelle di tutto il mondo, cioè non è che lo trovate su Repubblica, ecco, forse sì, non lo so, boh, che mi frega, però no, però in alcuni siti se n'è parlato un bel po', e quindi niente, vi racconto un po' che si leggeva. Ora, musichina, come sempre il passaggio alla musica è tendenzialmente più complicato che non dalla regia dove c'ho il mixer e tutte cose, però vediamo se mi riesce, penso di sì, musica. You got a problem, well, I got some problem solvers. My 357 and 38 revolvers, they hit the hardest. Lyrical bangers, that's stainless. Like Riddle the Kid, I make you famous. The remainers and plainers, rapping force, take no shorts, motivating. Never waiting, stay debating, cause there's no escaping. It's all about elevating. Little nigga, from the south side, part of Queens. With sons move fast, get blast, no material things change. Diamond rings, Lex GS for gangster lanes. Drop eyes with wise guys, family cries from true lies. From east to west, whoever come test our body, catching felonies, living longevity like Jogati. 16 years old, like a vampire, my blood is cold. When I'm rhyming, shining like a diamond of a rapper seen a fold. Where you lucked out, rapping that same rhyme, you struck out. Get the fuck out, lyrical gats about the shootout. Cause player haters is hating, recruits is what you're facing. Green rules everything, niggas is paper chasing. Crime related setback with two gats, then debated. Made a couple of moves, no time to lose. Money, we gotta make it, cause it gotta be. Smoking constantly, weed and font leaves. To be or not to be, street connect will be the death. Ayo, my destiny, stay alive. Forget my enemy, the Hennessy. Had me thinking that this shit is risky. Up in Poughkeepsie while I'm dealing, funny feelings hit me. Out of towners with for pounders, I know they wanna get me. Criminal individual thing, cause it's predictable. Niggas is miserable, assing out pains is pitiful for phony fake. Six snake niggas that need devil fruit to each his own in my eyes. No niggas better than you if you want it. Be trying to get it, never forget it. Melons get splitted off that he say she say gospel. Stick a pick a plot to put shots to rock you. We must communicate, operate with our options. We just be clocking, pushing weight to get your cheddar. Tommy Hill knit his sweater, living better with the Beretta. Whatever's clever, sipping on Armoretta. Keeping it real on the block, always and forever. Qualification, you're not my fam, it's no relation. Throwing gas and respiration, stopping all circulation. The medication is the weed, Remy your Moe. Niggas don't know me, I went from braids to a blowy. If you wanna get down and you don't roll, we rolling over you. Drug riches, destiny, you shitey bitches. If you wanna get down and you don't roll, we rolling over you. Our soldiers running with gas and they hosts uncontrollable. Stop glamorizing, the temperature's rising and guns is busting. Police handcuffing, guards walking the streets puffing, but that's nothing. The god is moving cautious and quickly. So try to get me, I'm more leery when I'm tipsy and ambitious. Lacing things, something ridiculous. I end the new year like St. Nicholas and have you sick of this. The wickedest with visions, head on collisions. Decisions that almost got me bullying incisions. A tale from the crypt with burgundy lips and roach clips. All up in the club with no whip, but drinks and dollar tips to see. Like Doc, you gotta fuck me for free. No dignity, I got stuff. Be in your dreams like a monster. Laid the fuck up in the cut, smoking ganja dupe. In New York with a scour like Luke. Boy, I smoke ass on my new. Get the boot like can't click. I air shit and write about the story in the pamphlet. Handle it, my mind is eternally candlelit. Street connect, click, rolling, holding, posing, taking flicks on some next shit. Making moves to correct it. Hustling earlier than breakfast to put the ice on my necklace. Watch your step, cause I'm reckless. Life is precious. Choose the presence of the essence. Things revolve around my cipher like sun, stars, and crescents. And lessons, my obsession for the street connect session. Protection, all we care about is getting paid. Like a legal aid on stage, it's blizzard lyrics and blaze. It's a phase, all we got left is days. Blaze the Dutchies, as my diamonds clean. Niggas came to touch me, but luckily I keep the vest under my rugby. Street connect, 40 projects is where my thugs be. You violated QCF, nigga, you showed no love for me. Fuck a name on wax, you got to deal with this. True lyricist, street connect, yeah, we be the realest. You said I'm weak, but now my brain speak to make you feel this. Hitting sounds got your head numb like painkillers. If you wanna get down and you don't roll, we rolling over you. Drug riches, destiny, you shitey bitches. If you wanna get down and you don't roll, we rolling over you. Our soldiers running with gas and they hosts is uncontrollable. If you wanna get down and you don't roll, we rolling over you. Drug riches, destiny, you shitey bitches. If you wanna get down and you don't roll, we rolling over you. Our soldiers running with gas and they hosts is uncontrollable. Yeah, yeah, put it up. Rieccoci qua dopo il un po' di musichina, giusto per non annoiarvi troppo con le mie chiacchiere, e quindi andiamo a parlare di questi nordcoreani che hanno combinato le solite cose in realtà. Però la scorsa settimana la McAfee ha raccontato quella che lei ha classificato come Operation Nord Star, cioè l'operazione Strada del Nord, e che era volta a spiegare un pochino questa campagna di malware che hanno riscontrato che hanno rilevato questi della McAfee, diciamo, vagliando un pochetto diversi malware venuti di cui erano venuti in possesso e che erano riferibili più o meno a un imprinting comune, hanno trovato diciamo tra i vari i, diciamo, i vari le varie vittime di questo tipo di attacco delle persone che facevano in qualche modo parte del mondo della difesa, cioè in qualche modo avevano a che fare con come di lavoro tentavano di avere in qualche modo a che fare con i dipartimenti della difesa di un tot di stati. Questo perché? Perché la caratteristica di questo attacco di malware era proprio quello di avere come target persone che in qualche modo ricercavano lavoro in quell'ambito. E quindi loro, intortandole un pochetto, li convincevano poi ad aprire un certo file che era dal disegnetto un docx, quindi un formato, un punto doc, no? Dove magari ti mandavano, oh, guarda, queste sono la nostra offerta commerciale, oppure questa è la brochure che descrive, oppure questo è il questionario che devi compilare, e tutte queste cose qua. Dentro questo docx, alla fine c'era alla fine di tutto la catena, una macro Visual Basic che andava a installare questo oggetto che hanno definito Torisma. Ora non so perché l'hanno chiamato Torisma, se è perché hanno trovato questa frase dentro al malware oppure perché gli ispirava, però la cosa buffa era appunto questa di cercare di convincere le persone a cliccare utilizzando una attività che prevede legittimamente di solito lo scambio di documenti, e quindi uno si pone in maniera meno diffidente, no? Cioè non è che mi è arrivata la mail di spam che non so chi me l'ha mandata con scritto che ne so, di una apri questa fattura della Telecom che io magari non ho la Telecom ma da anni ormai, e quindi boh, mi sembra strana questa cosa. No, qui effettivamente si trattava di un'attività che poteva apparire legittima, cioè se io t'ho ben intortato prima e t'ho fatto credere che effettivamente sono quello con cui stai facendo un colloquio di lavoro, per un lavoro che poi magari appunto era anche riferito a qualche dipartimento della difesa o di azienda che si presentava come collaboratrice di, no? E quindi anche avevi in qualche modo da parte sua una certa legittimità del ruolo. Data dal ruolo, no? Dalla posizione da come mi presentavo, ecco che diventa appunto buffo e interessante vedere come poi si ricada nel giochino sempre il click fatale, però con dietro tutto una sceneggiatura, una scenografia, non lo so, una specie di cornice. Che è forse la roba più interessante, ancor più dell'escamotage tecnico. E sempre i nordcoreani, questa è una notizia di qualche giorno prima, è stato ritrovato un oggetto dal nome fascinoso, che è sostanzialmente boh, una specie di spyware. Diciamo un malware con un sacco di però di so, in qualche modo molto ben equipaggiato per essere resistente alla fase di analisi, per non essere sgamato, cioè un sacco di roba ganza e che si chiama Kimsuki, o almeno così l'hanno chiamato. O anche, aspetta, hanno dato anche altri nomi, i nomi sono sempre molto fascinosi quando se ne inventano. L'hanno anche chiamato Black Banshee o anche Talium. Sì, vabbè. Comunque, uno di questi qua, a me piace Kimisuki, però Kimisuki c'aveva un suo, non lo so, come suona un po'. E niente, questo strano oggetto di produzione nordcoreana pare che avesse come target l'intelligence di in qualche modo, vediamo un po'. Comunque, sempre era un'operazione di alto livello, ecco quello che volevo dire. Cioè che di nuovo il target non erano quattro sfigati, ma erano personaggi ben mirati del mondo, diciamo, dell'intelligence. Tanto che appunto queste cose paiono provenire in parte, queste informazioni paiono provenire da una nota dell'FBI e dal Defense no, the Departments of Defense and Homeland Security, che è una struttura degli Stati Uniti che si occupa, diciamo, della. Cioè non è la National Security Agency, è un'altra agenzia governativa con degli scopi meno di intelligence e più difensivi. Più o meno io la interpreto così. E hanno rilasciato proprio un memo che riguarda le tecniche e la tattica e le varie procedure di questo Kim Suki. E quindi niente, volevo rendere dotti di questa cosa, perché magari poi siete persone curiose, andate a investigare meglio per i fatti vostri e cercate un po' di capire che cavolo faceva sto Kim Suki, anche perché ci si vedono degli screenshot in cui appare una roba con scritto tipo KGH backdoor.dll, che ha un suo fascino, diciamo, anche come nome di file, di nuovo. E non lo so, nel senso che se vi va di guardare questa cosa, sembra proprio esattamente come uno si aspetterebbe, un thriller con sottofondo, con, sì, insomma, con un retrogusto informatico, del, non lo so, del 2000, del 2021, sì, una roba del genere. Cioè sembra esattamente questo, cioè una roba per il nuovo anno, così, se futuribile, futuribile. E in realtà poi tanto futuribile non sembra, perché pare che sia in giro da diverso tempo, tipo anche dal 2012, o almeno comunque ci sono tracce di cose che gli assomigliano, pare già dal 2012. Interessante comunque, e però questa sembra appunto l'ultima evoluzione, quindi boh, non lo so, cercatevi di capire che cazzo è. Io mi piaceva solo il nome e ve lo volevo raccontare per questo. Però appunto, cioè, questa settimana, cioè Nord Corea, cioè la scorsa settimana, diciamo, due notizie a 2 giorni di distanza una dall'altra, vuol dire che comunque sono attivi, fanno cose, non è che se no non li cagava mica nessuno se non faceva niente. E vabbè, questo è quanto. Vi ho cercato di raccontare un po' queste cose, spero almeno di aver suscitato un po' di curiosità, che spiegarle appunto per radio non è sempre la cosa più semplice del mondo. Vi lascio un altro po' di musica e poi vi annoierò a morte, credo, con una lettura. Sì, ho deciso che, come l'altra volta, vi avevo letto delle cose da questo libro Storia Popolare della Scienza, e anche quest'oggi sono andato avanti a leggere, fino a che non finisco, ogni tanto ve ne propilo qualche capitoletto. La scorsa volta avevamo parlato diciamo, di quella visione che viene riassunta nei due termini miracolo greco, che era però una sorta di impostazione ideologica della scienza dell'Ottocento, che poi sfociava direttamente in posizioni fortemente razziste e che vedevano, diciamo, la parte più estrema incarnarsi nella scienza nazista. Però abbiamo appunto visto come anche la scienza, quella diciamo conosciuta come quella quella buona, no? Quella che noi non additiamo come ah, guarda che schifo, diciamo, anche Darwin aveva posizioni, sebbene pur essendo abolizionista, era comunque una persona che diceva no, le razze esistono e in particolare l'uomo bianco nei salti evolutivi, diciamo, sta in alto e poi in basso c'è la scimmia e in mezzo c'è l'uomo di colore sostanzialmente. Questo diceva Darwin, ma proprio perché la scienza aveva fortemente introiettato questo paradigma molto razzista. E in qualche modo il miracolo greco, diremo cosa c'entra tutto questo, cosa c'entrano i greci con tutto questo, è perché la scienza greca in qualche modo veniva riferita come la madre di tutta la scienza occidentale. Questo perché? Perché riconoscere i debiti con l'Africa e l'Asia avrebbe significato dire rimettere in discussione la supremazia dell'uomo bianco. Invece i greci, per quanto secondo me erano un pochetto scuretti, però comunque potevano rientrare a livello di lingua in una radice indoeuropea. Che quindi in qualche modo giustificava la nostra supremazia. E quindi, se erano inventato tutti quanti i greci, era giusto che noi però avessimo continuato a dominare. Se invece eravamo debitori dall'Africa, a quel punto uno si doveva anche chiedere: vabbè, ho capito, ma perché allora adesso comandiamo noi? No? E quindi questo metteva in discussione un sacco di cose, la schiavitù e tanto altro. E questa era la puntata dell'altra volta. Vi ho fatto il riassunto perché sono convinto che non è che proprio tutti mi ascoltino ogni volta, quindi ogni la butto là. E invece questa volta vi leggo un altro pezzo riferito questa volta a un personaggio ben preciso. Sono due paginette, poi vediamo, magari mentre leggo ci sta che salto qualche pezzetto per non annoiarvi proprio a morte completamente, ma lasciarvi comunque della forza vitale che vi consenta di arrivare in qualche modo fino alla fine, almeno ai saluti finali. Quindi ora un altro pochino di musica e ci risentiamo tra un pochetto. Promoted for the job he did on the streets of the H2O, where the pushers sell the drugs that the government allows in the country, and then they do time. Get caught with a nickel bag, brother man. Get caught with a nickel bag, sister lady, on your way to get your hair fixed. You'll do Big Ben. Yo, his recognition to God bodies on inner city streets that fell and hit the curb hard massively. Elevated to the top, bust started at the bottom. Maintained position well and even caught stardom. Became a victim to a substance that you pushed on block. Now your life is off the hook and you mow hot rocks. You grew up without any guidance at home. Your moms was always out drunk, so you was able to roam. At the age of 13, you entered the drug scene and then dropped out of high school at the age of 15. At the age of 18, planted your seed in your earth. Allah blessed you both with a beautiful birth. But this birth had to be fed without a neglect. And without an education, you can't get no respect. Searching for employment was nothing but disappointment. So you went for Duff and got your own employment. On the streets, you accumulated cream for your seed and inherited material for necessity needs. Blew the spot, had workers out on almost all blocks. From North Main to South Main, and H2O was mad hot. You even shorted brothers for the cheddar and their crops. And even worse, you said prices was high on the stock. But on the L, you was puffing up woos and it fell into a realm where later on it would be easy to tell the truth, no doubt. It was all going down. The empire you have, it was on its way to the ground. Cause overnight you introduced your mouthpiece to the pipe and took your life into a realm where it was hard to see light. Yo, from riches to rats, from dime pieces to crabs, from puff and lie smoke to cop and crack on the act. The change of life be a reflection of a physical that fell and the manhole to the depths of hell. Once a player, but now you stand all played out. The latest dope crackhead dealer, the rumors be about. God bless. I know your days are filled with enough stress, but on your journey never cease to hold it down your back. I'm writing rhymes for the ghetto dwellers, building the cellars, fat concepts and steps for the storytellers. Preparing rhymes like product on the block, mad hot. Watch your back, black or get bagged in the plot. What you thought it couldn't happen, better wise up, for the undertaker be exercising your upper. Really doesn't doesn't matter where you're from, son. You could be a big dick, nigga, still get dumb. See you around my way, niggas act mad tripe. Playing Russian roulette with the next man's life. Games of situations similar to Vietnam. Not a day goes by where the night seems calm. I used to lay in my rest with a bag of Buddha blessed, getting set. Now the times occupied with stress, shit is a mess. I used to run games with niggas that changed, like the weather, not sit strange. Cause the love's faking and clever, but I still got love for my niggas, no doubt. Even though I can't figure these actions out. So watch the love, son, watch the love. For you and your crew, be resting above. Now my man wanna front big time on the regular. Out in public places, talking on the cellular. You got a dip, let us put your whip. Bought a jewels fly again, now she took you on a trip to St. Elsewhere. Cause you couldn't see clear. Now the next man's pushing up from the rear. He got your jewels, he got your dip, pushing your whip. But you couldn't see nothing, so you got stripped up. Material things, mad cash, she kept the stash. And was plotting on the day, your ass would crash. And be ass out, a no name herd with no clout. Yo, the pussy for the loot, that's what she was about. Yo, from riches to rats, from dime pieces to crafts. From puff and lie, smoke the cop and crack on the ab. This changing life be a reflection of a physical that fell. And the manhole to the depths of hell. Once a player, but now you stand all played out. The latest dope crackhead dealer, the rumors be about. God bless, I know your days are filled with enough stress. But on your journey, never cease to hold it down, your best. Being promoted for the job he did on the streets of the H2O, where the pushers sell the drugs that the government allows in the country, and then they do time. Rieccoci qua, vi leggo quindi, come vi ho promesso, qualcosa per annoiarvi un pochino a morte, no, per condurvi lentamente verso il sonno, visto che sono già le 22:10 e quindi faccio questa lettura della buonanotte, poi se non volete andare a dormire, state svegli, a me cazzo me ne frega, comunque. La lettura è presa da un libro, si intitola La storia popolare della scienza, che mi hanno donato gentilmente per il mio compleanno, e che è veramente un bel libro, mi sta ispirando tante cose, mi piace il piglio che c'ha, e dedica un capitolo, un capitolo di questo libro che parla della scienza, essenzialmente del... quando sarà questa, 1600, 1700, una cosa del genere, e vabbè, comunque sì, 1600, facciamo 1600, via. E comunque dedica un capitolo a un personaggio abbastanza, penso, sconosciuto, almeno io non sapevo manco chi cazzo fosse, però appunto per colpa degli insegnamenti che ci fanno, che tendono a cancellare il ruolo dei personaggi minori o appunto anche degli artigiani sconosciuti, dei manovali poco appariscenti, e del ruolo che queste persone hanno avuto nella storia della scienza e del metodo sperimentale, eccetera eccetera. Quello di cui voglio parlare oggi è questo tale William Gilbert, e il capitolo che vorrei provare a leggervi è William Gilbert e il magnete. Alcuni storici della scienza hanno sommariamente qualificato William Gilbert come un discepolo di Bacone, o ne hanno caratterizzato l'attività sperimentale come conforme agli insegnamenti di Francesco Bacone. La realtà è che all'epoca di questi esperimenti Bacone era ancora un bambino. La fama di primo scienziato sperimentale che accompagna da sempre Gilbert si fonda sul libro De Magnete, che è uscito nel 1600, la prima importante opera di scienza moderna in Inghilterra, un caposaldo nella rivoluzione scientifica. La sua forma e il suo contenuto si stagliano come uno spartiacque nel paesaggio della mente. Queste erano mini recensioni, no? Prese per dire che questo libro effettivamente pare aver avuto una sua importanza. Io non lo conoscevo perché sono ignorante, è colpa mia. William Gilbert, uno dei medici personali di Elisabetta I, si impegnò nell'indagare e interpretare razionalmente il potere apparentemente occulto della magnetite di attrarre il ferro. Il De Magnete è il resoconto dei suoi risultati, nel quale sono descritte scrupolosamente le procedure degli esperimenti effettuati in modo da consentire al lettore di riprodurli. Non fosse stato... Scusate, sì, no, stavo guardando se avevo, stavo parlando al vuoto, se invece stavo veramente registrando. Non fosse stato per il latino, la prima traduzione in inglese apparve soltanto 3 secoli dopo, nel 1893, lo si sarebbe potuto scambiare per un testo di scienza popolare. Ovviamente Gilbert non si rivolgeva agli artigiani e ai lavoratori manuali, ma intendeva piuttosto portare le informazioni, i metodi e le tecniche appresi da quest'ultimi all'attenzione della comunità internazionale dei dotti, la cosiddetta Repubblica delle Lettere. Tenendo conto del livello delle conoscenze e degli strumenti a sua disposizione, è difficile suggerire cosa avrebbe potuto fare Gilbert per migliorare i suoi esperimenti. In altre parole, nel De Magnete la pratica sperimentale appare improvvisamente in una forma pienamente matura, senza residui di fasi primitive o intermedie. L'approccio di Gilbert era così inedito che viene da chiedersi quale ne fosse l'origine. La risposta deve essere cercata in una lettera attenta dello stesso De Magnete, che mostra quanto estesamente Gilbert abbia attinto alle conoscenze di fabbri, minatori, navigatori e fabbricanti di strumenti. A una lettura attenta, a una lettera, ecco perché non capivo che cazzo stavo leggendo, scusate, era una lettura attenta dello stesso De Magnete. I suoi esperimenti, fece notare Zilsel, spesso si limitavano a riprodurre i procedimenti pratici in uso nell'industria del ferro del tempo. In breve, il suo spirito di osservazione e sperimentazione non derivava dagli studiosi, ma dai lavoratori manuali. Si prenda per esempio la sua descrizione di un esperimento fondamentale volto a dimostrare la tendenza delle rocce magnetiche a disporsi in linea con l'asse terrestre nord-sud. E qui c'è il virgolettato, che è preso dal De Magnete. Avevamo scartato ed estratto dalla vena una magnetite di circa 10 kg, avendone prima osservato la posizione e fatto un segno sulle sue estremità. Quindi, dopo averla portata alla luce, la mettemmo in acqua su un galleggiante, in modo che fosse libera di ruotare. Immediatamente l'estremità, che nella miniera era orientata verso nord, si volse nell'acqua in direzione nord. È ovvio che per eseguire questo esperimento Gilbert lasciò i luoghi appartati dei suoi studi. Non possono esserci dubbi sul fatto che lo scienziato sia disceso davvero nelle miniere di ferro in cui si trova la magnetite, per intrattenere stretti rapporti con i minatori. Così l'analisi della magnetizzazione che si produce in una barra di ferro quando viene lavorata disponendola in direzione nord-sud mostra chiaramente che Gilbert aveva speso parte del suo tempo a osservare il lavoro nelle officine e ad acquisire informazioni dai fabbri. Non a caso, l'officina e gli strumenti di un fabbro sono illustrati da una xilografia che accompagna il testo. Eppure, con tutta la loro importanza nella storia della scienza, noi non conosciamo né idee né i nomi dei minatori e dei fonditori, poiché a quel tempo tali categorie appartenevano agli strati più bassi della società e non erano istruite. La navigazione e gli strumenti nautici giocano nel De Magnete un ruolo ancora più determinante di quello dell'industria mineraria e della metallurgia. Nel respingere l'ipotesi che il fenomeno della declinazione magnetica fosse dovuto ai vasti depositi di magnetite sparsi regolarmente sulla superficie terrestre, Gilbert adduce, come prova la testimonianza dei marinai, i quali riferivano che oltrepassando l'isola d'Elba, nota per le potenti magnetiti che vi venivano estratte, l'ago della bussola non subiva deviazioni. Circa il modo in cui furono effettuate le misurazioni che sono all'origine della celebrata precisione scientifica di Gilbert, Zilsel osserva che tutti i suoi strumenti fisici erano, in realtà, strumenti nautici, o perlomeno strettamente imparentati alla bussola dei marinai. Quando i marinai del XVI secolo presero la via del mare, posarono la prima pietra dell'impero britannico e quando andarono in pensione e si misero a costruire bussole, posarono la prima pietra della moderna scienza sperimentale. Sebbene il magnete, questo era un virgolettato, era una citazione di questo Zilsel. Sebbene il magnete mostri chiaramente il debito dello scienziato nei confronti dei lavoratori manuali, quasi nessuno di questi collaboratori viene citato per nome. Per esempio, discutendo del comportamento della bussola alle varie latitudini, Gilbert cita come propria fonte i più celebri capitani e anche molti intelligenti marinai, ma consegna ai posteri soltanto i nomi di due gentlemen, Thomas Cavendish e Sir Francis Drake, senza fornire l'identità di nessun marinaio comune. E qui mi fermo, perché poi il libro continua ancora così per un pochetto, ma il capitolo era quasi finito, lo giuro. Se non si fosse compreso, insomma, il testo voleva, come in realtà fa praticamente in tutto il libro, smontare l'idea della scienza come un parto di mentalità geniali, di menti geniali, di eccentrici che comprendevano il mondo meglio di altri, e in realtà vuole restituire il ruolo che tutto quell'anonimo popolo dei disgraziati e faticatori di varia natura, in qualche modo, appunto, vuole restituire il ruolo che queste persone, con la loro scienza meramente pratica, avevano poi nell'ispirare o nel proprio guidare o nel fornire i mezzi a quelli che rivestivano invece diciamo, per tipologia di vita, per scelta di vita, per contingenze, perché avevano potuto studiare, perché in qualche modo ci chiappavano di più o avevano avuto il culo di diventare famosi, di poter scrivere, imparare il latino, potersi esprimere in quel mondo di dotti che era appunto la scienza di quegli anni, e appunto restituire in qualche modo dignità a tutto questo, a questo sommerso anonimo, che pure è alla base, almeno così sostiene il libro, di tutta la scienza moderna ma anche antica. Cioè vorrebbe in qualche modo restituire qualcosa a queste persone che però non conosciamo. Infatti in questo capitolo si vede bene, perché lui dice, sebbene lui avesse un grosso debito con la scienza nautica, di fatto non ci sono i marinai da cui ha tratto ispirazione, ha tratto gli insegnamenti, ma cita solo alcuni grossi nomi. Quindi, per dire che anche sebbene non si sia vergognato in qualche modo di descrivere, e né di andare in miniera con i minatori, in officina con i fabbri e sulle navi con i marinai, poi di fatto non sentiva in qualche modo un debito tale da in qualche modo citarli, farli conoscere, e di loro non sapremo nulla. Sappiamo quello che è emerso attraverso le personalità come queste, che poi sono quelle che mettono la firma sul libro, ma non sappiamo poco del contesto in cui questa roba è veramente nata. E quindi niente, con questa lettura spero interessante vi lascerei, vi lascio a un altro po' di musichina, vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Coccoli al Silicio, che sarà la 75 se questa era la 74 e la 76 se questa era la 75, ma non me lo ricordo più. E comunque non ho ancora caricato sul sito di Radio Wombat il podcast della scorsa settimana, quindi probabilmente domani sera pubblicherò i due podcast assieme, cioè quello della scorsa settimana e quello di questa, e noi ci risentiamo di nuovo lunedì sempre verso le 21:30 per una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Vi auguro la buonanotte e vi lascio con la musichina. I'm on a lifetime mission or a quest for death. In conditions of the system, puff assess. I'm stressed, niggas dying for less, trying to see better. Witness terror, cream addiction, fishing the streets for hitting treasures. Sipping fine wines, the finest dimes to endeavor. Laid back, counting mad stacks, now and forever. Check the status, beat me flipping like I'm acrobatic. Too much soul for one man to hold, causing reactions. Born in the money maker, but raised in the Bronx where the streets was blazing hot. Amazed by the stunt, we ran deep and played the block. Claimed stolen land with plans and major stock to bless the whole fam, but damn, it's a hustle. Gotta struggle just to stay alive. Broken dreams of making millions since 85. Many tried and died, eyes on paradise. paradise. But I strive with pride till I see that afterlife. Get it, long as you live it, time keeps slipping. Maintain, though the drama got your mind tripping. Touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, speak verbal reality. Get it, long as you live it, time keeps slipping. Maintain, though the drama got your mind tripping. I'm touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, speak verbal reality. Night after night, drifting. Hitting L's, reminiscing, wanting the riches, another world of existence, deadly intentions, nothing for phonies to listen to, persona karma, then smooth criminal, hitting you, lifting you to new levels, everything is far from settled, I'm stressed too, I stuck them same demons that possess you, the black knights and grab tight, his skins and crash mics, surviving, the torment that haunts me from past lives, get it, long as you live it, time keeps slipping, maintain, though the drama got your mind tripping, I'm touching fine women, holding bigger salary, living trife life, verbal reality. My ghetto culture getting closer to the end of time. Feeling vital signs, heavy drama on your mind. Drastic, the rest from the cradle to the casket. Sky's the limit, this nigga trying to blast past it. Alaska, we're maxing in the illest of fashion. In the rocking chair, relaxing, daughters playing and laughing. Hitting L's with passion, open, holding crazy cream. Bringing to reality what I witnessed in dreams. Morality, living right, keep your game at tight. I told you, black knights, young cats be dying in gat fights. Life's screw, the corner had to school. Some fools witness danger, play the cool. Willies laid the rules. Some got knocked and locked, facing life without parole. Shit could knock your blocks, get a grip, hold your soul. It's like a paradox going through this, like I was born to do this. Ancestors felt the pressure, tell me what the truth is. Get it, long as you live it, time keeps slipping. Maintain, though the drama got your mind tripping. I'm touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, speak verbal reality. Get it, long as you live it, time keeps slipping. Maintain, though the drama got your mind tripping. Touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, speak verbal reality. Get it, long as you live it, time keeps slipping. Maintain, though the drama got your mind tripping. Touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, son, verbal reality. Get it, long as you live it, time keeps slipping. Maintain, though the drama got your mind tripping. I'm touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, son, verbal reality.